Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 7 agosto 1990 a Roma, via Carlo Poma 2, quartiere Prati. Simonetta Cesaroni sta lavorando negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. È sola. Svolge quel lavoro durante l'orario di chiusura al pubblico. Tra le 17.30 e le 18.30 qualcuno entra nell'ufficio e la uccide. Il suo corpo ormai senza vita viene ritrovato dagli investigatori solo il giorno dopo. L'assassino la colpisce con 29 coltellate. È seminuta, ma non ha subito violenza sessuale. Simonetta Cesaroni sarebbe stata immobilizzata dopo aver lottato per tutta la casa. Sulla porta non ci sono segni di scasso. Gli inquirenti indirizzano subito le indagini con due ipotesi. O Simonetta ha aperto all'assassino, oppure questi aveva le chiavi. Ma chi è Simonetta Cesaroni? Il racconto di Marcello Vinonuovo. Dalla biografia di Simonetta Cesaroni non emergono aspetti intriganti, dettagli da romanzo noir. Simonetta ha 21 anni, una bella ragazza dai capelli scuri e lunghi. Abita al quartiere Tuscolano in Roma, ha una vita regolare, un fidanzato, una passione per il mare. Il padre è un autista per la società di trasporti Acotral, la madre una casalinga. La sorella più grande, Paola, è impiegata in uno studio notarile. Anche Simonetta desidera essere indipendente. Si diploma in ragioneria e inizia a svolgere alcuni lavori saltuari fino all'ultimo impiego, quello nella società di consulenza fiscale di Salvatore Volponi, la Rally SAS di Via Maggio, al Casilino. Qui Simonetta era impiegata già da un anno, prima di quel tragico 7 agosto del 1990. In quel periodo lavora per conto della società al bilancio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, via Carlo Poma 2. A quel civico 6 anni prima era stata uccisa una donna, Renata Moscatelli. L'assassino non fu mai trovato. Simonetta lavora in orario di chiusura, al terzo piano, nella stanza della segretaria. Vi si reca dal luglio 1990, il martedì e il giovedì di ogni settimana. Ha un mazzo di chiavi e non può rispondere al telefono, ma non è mai sola. C'è sempre qualcuno della sua società ad accompagnarla. Tranne quel 7 agosto, il giorno nel quale è spogliata e colpita a morte. Il giorno dopo viene trovata nella stanza del capufficio, senza vita. Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, la cerca da molte ore. Si reca in via Poma 2 e parla con la portiere, moglie di Pietrino Vanacore. Dopo una lunga trattativa, convince la donna ad accompagnarla nell'ufficio. Arrivati al piano, la portiera poi... abbiamo prima constatato che era chiusa la porta, non era appoggiata, insomma. E ha tirato le chiavi, abbiamo chiesto di aprire a quel punto, cioè, se ha le chiavi proviamo ad entrare, insomma, in fondo ci ha accompagnato lei, non è che... eravamo sempre, chiaramente chiedevamo, non è che abbiamo fatto pressioni incredibili, insomma, abbiamo fatto capire la nostra preoccupazione, la nostra necessità di sapere se mia sorella stava lì o meno. Sì, lei ha aperto. In quei mesi Raniero è il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e sulla libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza ce ne siano. E da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, forse. Delitto passionale? Una vendetta trasversale? Un mistero legato all'intelligence? Le piste investigative si concentrano per molti anni sul ruolo di alcuni inquilini dell'elegante palazzo di Via Poma 2 a Roma. Raffaella Calandra. Pochi i fatti, molte invece le ipotesi, le ricostruzioni, le accuse e le assoluzioni per il delitto di Via Poma. Mai individuata l'arma del delitto, mai analizzato il tagliacarte trovato nell'appartamento. Da subito la pista più battuta è quella passionale. Il corpo di Simonetta viene trovato seminudo, ma non ha subito violenza sessuale. Ha lottato invece fino alla fine la ragazza contro il suo assassino, che dopo averla uccisa le porta via slip, pantaloni e maglia righe. aveva le chiavi, forse, di quell'ufficio dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, o era stata la stessa Simonetta ad aprirgli. 3 giorni dopo i giornali pubblicano in prima pagina la foto del mostro Pietrino Vanacore, il portiere. L'avrebbe uccisa, scrivono, perché respinto. Si fa 20 giorni di carcere, ma poi viene rimesso in libertà con tante scuse. Il suo nome ritorna nell'inchiesta 2 anni dopo con l'accusa di favoreggiamento. Avrebbe ripulito l'appartamento dopo l'omicidio per mano di Federico Valle, residente nello stesso palazzo. Ad accusarlo un commerciante tedesco, Roland Voller, sospettato a sua volta di collusioni con l'intelligence. Valle avrebbe ucciso Simonetta perché amante del padre. Un'ipotesi mai suffragata da prove, come scriverà il 16 giugno del 93 il giudice Antonio Cappiello. Dopo una fase di stasi, le indagini riprendono in un'altra direzione, verso l'architetto Luigi Izzo, ancora un inquilino di questo condominio dalle 1000 stanze. Ma anche questa pista non porta a nulla e tutto resta avvolto nel mistero. Come quel messaggio indecifrabile trovato sul luogo del delitto: c'è dead, ok. Il personaggio chiave resta Pietrino Vanacore, portiere dello stabile di Via Poma 2. Una persona educata, precisa, affidabile. Su di lui gli investigatori indirizzano i primi rilievi. Enrico Mentana, ai tempi inviato del TG1, lo aveva intervistato. Vanacore, si dice che lei sia una persona fredda. Viene dipinta come una persona dallo sguardo glaciale. Lei come si sente? Non mi sento, perché forse è da tutte le disavventure avute. Allora forse a qualcuno, no? Do quell'impressione. Lei fu fermato 48 ore dopo. In quelle 48 ore ha percepito il rischio di rimanere in qualche modo coinvolto in questa vicenda? Ma io ero talmente preso, non riuscivo a capire come e perché, insomma, mi trovavo in quelle circostanze. Cosa si aspetta dal futuro di questa vicenda? Spero che venga, e sono convinto che la giustizia fa il suo dovere e che porti a termine, e avrà la soddisfazione di vedere in faccia chi ha colpito. E per sé? E per me arriverà la serenità. Ma Pietrino Vanacore viene scarcerato dopo pochi giorni ed esce di scena dall'inchiesta dopo la decisione del Tribunale della Libertà. L'avvocato Antonio De Vita è il legale del portiere di Via Poma 2. Intanto che il condominio di Via Poma era un condominio dove la gente poteva entrare e uscire comodamente, senza dover essere per forza vista. In secondo luogo che la situazione dei luoghi era tale che consentiva questa situazione. In terzo luogo che la quantità del sangue che era stato perso nell'occasione era tale che non era minimamente pensabile che la persona che avesse agito non si fosse macchiato di sangue. Il Vanacore teneva gli stessi vestiti che aveva il giorno precedente, il giorno successivo e il giorno successivo ancora. Quindi non si era mai cambiato. In realtà la goccia di sangue famosa che ha giocato contro di lui, che ha attivato l'attenzione in maniera particolare, successivamente si è dimostrata di sua proprietà, conseguentemente ha svalutato, ma è stato dopo la scarcerazione. Perché tutta quanta la rosa di sospetto che si era addensata su di lui è stata valutata dal Tribunale della Libertà univoca e non che non avesse preso in considerazione le situazioni diverse a carico di eventuali altre persone. Sul ruolo di Pietrino Vanacore, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma, Antonio Cappiello, rilascia questa intervista in esclusiva al programma di Rai 3 Ombre di Giallo. Le indagini furono fuorviate dal rinvenimento di tracce ematiche sui pantaloni di Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile e quindi, in un certo qual senso, l'autore ideale del reato, perché si trovava sul posto. Aveva la possibilità di accedere senza chiavi, bussando semplicemente alla porta per farsi aprire dal Cesaroni. Aveva la possibilità di pulire, come fu pulito il locale. Aveva la possibilità di nascondere qualsiasi traccia del reato e quindi, insieme alle tracce ematiche, fu ritenuto l'autore ideale. Quando si scoprì invece che le tracce ematiche erano invece proprio del sangue del Vanacore, la pista Vanacore venne meno, ma era venuto meno anche il tempo necessario per occuparsi di altre indagini relativamente al vero autore del reato. E c'è qualcuno che getta anche cattiva luce sulla figura di Simonetta Cesaroni. Notizie pubblicate da giornali risulteranno poi chiaramente false, come ricorda l'avvocato di parte civile Lucio Molinaro. È vero che qualcuno ha maliziosamente interpretato alcuni eventi che sono stati conosciuti parzialmente o comunicati erroneamente e quindi ha descritto Simonetta in un modo errato rispetto alla vera personalità di questa ragazza di 20 anni che viveva in un ambiente sereno, modesto dal punto di vista economico ma con la massima rettitudine morale. Devo fare questo riferimento che è proprio la prova che da qualche parte c'è una specie di godimento a qualche maliziosa insinuazione a proposito di una notizia di un presunto ritrovamento di una scatoletta di pillole anticoncezionali nella borsetta di Simonetta, che è stata poi smentita dallo stesso magistrato, che mi ha autorizzato anche a dichiararlo, che lui ha commesso un errore, una svista nel leggere gli atti, perché non si era accorto che invece questa scatoletta non era nella borsa di Simonetta, ma era una prescrizione medica per una cura momentanea di una disfunzione che aveva Simonetta. Tra poco, dopo la viabilità, il racconto del giallo e nero sul delitto. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Sull'omicidio di Simonetta Cesaroni i misteri si intrecciano e gli inquirenti battono molte piste. Federico Valle è tirato in ballo da Roland Föller. Rivela alla polizia che il ragazzo, 21 anni nel 1990, era in via Poma all'ora del delitto e quella sera sarebbe tornato a casa con un braccio sanguinante per una ferita. Il sospetto è che abbia ucciso Simonetta perché la ragazza era l'amante del padre. Raniero Valle sarebbe l'assassino e Vanacore il favoreggiatore che pulisce l'appartamento dopo il delitto e si impossessa degli indumenti per simulare una rapina. Ma il sangue di Federico Valle non corrisponde a quello ritrovato su una porta. Il racconto dell'avvocato Raniero Valle. Roland Boller, che era un cittadino austriaco che viveva in Italia, dove stava scontando una condanna per bancarotta fraudolenta, e dopo un anno dal delitto, circa un anno, 11 mesi, si recava al commissariato Flaminio Nuovo perché aveva l'obbligo di firma. Durante queste frequentazioni raccontò a degli agenti di polizia, suoi amici, perché ormai li conosceva da tempo, che si era ricordato improvvisamente di una telefonata che le era stata fatta il giorno del delitto, presumibilmente, dalla madre di Federico, nella quale telefonata gli avrebbe confidato che il figlio sarebbe ritornato a casa la sera con gli abiti sporchi di sangue e con una mano ferita a causa di un lavaggio della macchina, che sarebbe ferito la mano lavando la macchina. Per poi dare più valore, per valorare di più questa bugia, disse anche agli inquirenti che la madre le avrebbe confidato anche di essere dispiaciuta per una relazione che il sottoscritto avrebbe avuto sempre in quel periodo con una segretaria ventenne degli Ostelli della Gioventù, in altre parole la Cesaroni. In realtà queste due cose furono tutte e due riscontrate, nel senso fecero le indagini gli inquirenti e per quello che riguardava la relazione presunta con la Cesaroni, venne fuori soltanto il Voller ne parlò, e questo tra l'altro convinse il giudice della sua malafede, perché non poteva mia moglie avergli detto una cosa che non sapeva neanche lei, anche perché mia moglie sapeva perfettamente che io in quel periodo vivevo insieme a un'altra donna che aveva 30 anni e non era la segretaria di Ostelli ma lavorava in tribunale, quindi non poteva dirle una cosa diversa dalla verità, semmai l'avrebbe detto che era dispiaciuta perché stavo con un'altra. Quindi questa fu una cosa riscontrata che era assolutamente inesistente e dimostrò la malafede. Per quello che riguarda la mano, anche lì io stesso chiesi subito al pubblico ministero di fare gli esami, ma lui li fece molto più tardi e venne fuori che sulle mani Federico non aveva assolutamente niente. Voller parlò di mano perché, ignorando il fatto che avevo due figli maschi, quindi Federico aveva un fratello, Voller vide nel dicembre del 90 la madre di Federico al supermercato con l'altro mio figlio, che aveva effettivamente una mano ferita, si vedeva a vista d'occhio perché perdeva sangue, aveva avuto un incidente col motorino pochi giorni prima, quindi aveva un chiodo per consolidare la frattura. Lui lì cominciò ad architettare tutto, vede questo fatto della mano e pensò che nessuno avrebbe potuto smentirlo, solo che sbagliò persona. Sia Voller che mia moglie dissero, quando furono interrogati ovviamente separatamente, che fu una conoscenza casuale, cioè Voller facendo un numero, sbagliando un numero, chiamò mia moglie. Dopodiché cominciarono a parlare al telefono ed ebbero una, come definiscono gli stessi inquirenti, una sorta di amicizia telefonica, però poi si incontrarono una volta per conoscersi, ma al di là di questo, queste confidenze avvennero prima di questo fatto. E in un verbale che è qui scritto in interrogatorio, il poliziotto dice che Voller, in cambio della sua deposizione, chiese l'appianamento dei processi suoi in Italia e il blocco dell'estradizione che aveva chiesto l'Austria nei suoi confronti per delle pene che doveva scontare in Austria per truffa aggravata continuata. Quindi lui, in cambio della sua testimonianza, aveva chiesto questo. Siamo nel 2004, gli investigatori tornano sul luogo del delitto. Entrano in scena i carabinieri e, forti delle tecnologie all'avanguardia, provano a ricostruire la scena dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e a rileggere i dati sulle macchie di sangue e sui computer. Titolari del fascicolo d'inchiesta sono il procuratore aggiunto Italo Ormanni e il PM Roberto Cavallone. Il caso della morte di Simonetta Cesaroni riserva ancora oggi numerosi punti oscuri. Secondo il criminologo Francesco Bruno, le nuove tecnologie potrebbero aiutare gli investigatori a delineare il volto dell'assassino. Ci sono tantissimi punti oscuri. Le investigazioni allora purtroppo furono un po' confuse e quindi non accertarono alcuni elementi fondamentali. Per esempio, quando le persone che sono arrivate a soccorrere in via Poma e poi hanno trovato il cadavere, hanno aperto l'appartamento, ancora non sappiamo se il computer era acceso o era spento, se la luce era accesa o era spenta e così via, perché ci sono testimonianze contraddittorie e ancora non sappiamo neanche chi ha chiamato la polizia, anche lì ci sono testimonianze contraddittorie. E poi naturalmente tante altre domande non hanno avuto risposta, in particolare quelle che riguardavano l'analisi di queste macchie di sangue, ma mai stata fatta, il DNA che è venuto anche quello confuso, insomma sono tantissimi punti oscuri. Tutto potrebbe essere valido perché sicuramente qualcuno sapeva, qualcuno può aver taciuto, magari a distanza di tanto tempo può essere venuta fuori qualche testimonianza importante che però da sola non prova nulla, e allora è importante che i carabinieri cerchino specificamente gli elementi. Può darsi anche che li trovino, cioè non è da escludere. Oggi diciamo si possono fare delle cose migliori rispetto a quelle di allora, ma comunque il tutto secondo me non può che nascere da un intervento preciso, da delle informazioni precise, e quindi adesso si tratta di trovare le prove per sostanziare queste informazioni di elementi che possono portare poi al chiarimento del giallo. Le nuove indagini sul delitto di Via Poma si muovono dunque lungo due binari di investigazione, quella tecnologica e quella classica su documenti e perizie. I carabinieri del RIS hanno sviluppato nel corso del tempo una specializzazione in questo tipo di indagini dedicate. Il maggiore Luigi Ripani è il comandante del reparto investigazione scientifica di Roma. La nostra struttura nasce prevalentemente per effettuare accertamenti tecnici in laboratorio. Quindi abbiamo chimici, fisici, biologi, ingegneri e così via, personale a elevato profilo, ad alta specializzazione. Solo in casi particolari, di particolare gravità, eclatanza, veniamo chiamati sul luogo del reato. L'intervento sul luogo del reato è paradossalmente forse l'aspetto più importante di un'indagine, innanzitutto perché la possibilità di disperdere tracce, che sono quelle che poi ci dicono che cosa è successo, ci dicono se è avvenuto o no un reato, chi potrebbe essere l'assassino e così via. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. E da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti tipo il RIS di Roma, ma comunque anche altri, delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dall'altro abbiamo la tecnologia, che hanno direzioni opposte. E rispetto al passato, che cosa c'è? In laboratorio e sul luogo del reato. In laboratorio, faccio l'esempio, l'esame del DNA, avevamo bisogno di una quantità concreta, una macchia di sangue sicuramente visibile ad occhio nudo. Oggi lavoriamo su tracce, su quantità invisibili estremamente basse, cioè e talvolta anche degradate, cioè 10 anni fa, 15 anni fa non era possibile fare una cosa del genere. Sul luogo del reato la cosa più importante è la ricerca delle tracce. Oggi rispetto al passato, se prima era l'esperto che andava lì e osservava in modo meticoloso, oggi il personale preposto ai rilievi sicuramente ha delle tecniche che un tempo diciamo non erano utilizzate o neanche esistevano. Per esempio, l'uso di alcune lampade a determinate lunghezze d'onda evidenziano la presenza di impronte sia biologiche o anche per esempio impronte digitali. Un tempo non era possibile vederle all'occhio nudo e quindi era materiale disperso, era materiale non utile per l'indagine criminale. Agosto 1990. L'Italia era reduce dalle notti magiche dei mondiali di calcio e dalla delusione per quei rigori sbagliati che ci erano costati il titolo. Al governo c'era Giulio Andreotti. Da pochi giorni Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait. Sembrano eventi di un secolo fa, ma l'assassinio di Simonetta Cesaroni resta ancora un profondo buco nero della storia italiana. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it. Sito di Via Poma.